Garibaldi fu ferito di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio ad agosto del 1825. I ribelli greci sconfitti a Sfacteria, nella battaglia muore il patriota piemontese Santorre di Santa Rosa. Grandi festeggiamenti a Milano, arriva in visita l'imperatore Francesco. Stati Uniti, il congresso ha deciso, il presidente sarà John Quincy Adams. Antonio Salieri se ne va, scompare il compositore italiano più famoso dell'impero austriaco. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura l'ultima ora che arriva dal Regno delle Due Sicilie. Il re è morto, Ferdinando I se n'è andato dopo essere rimasto sul trono per ben 66 anni. Al re Lazzarone o re Nasone, così soprannominato dal popolino napoletano che in gioventù frequentava, succederà Francesco I. E un altro Francesco I, l'Asburgo imperatore d'Austria, inizia in questo periodo un viaggio per visitare i possedimenti di Vienna in terra italiana. Si preparano grandi festeggiamenti a Milano, tra rigide misure di sicurezza. E ora andiamo in Grecia perché è morto qua un noto patriota italiano. Un massacro. A Sfacteria, nella baia di Navarino, sulla costa ovest del Peloponneso, una sortita degli indipendentisti greci contro gli ottomani che hanno ripreso la baia si è trasformata in un disastro, in cui ha perso la vita combattendo eroicamente anche il protagonista dei moti piemontesi del 21, il conte Santorre di Santa Rosa. L'anno scorso la sublime porta di Istanbul è tornata all'offensiva contro gli indipendentisti. Cruciale è stato l'appoggio di una potente flotta egiziana guidata da Ibrahim Pasha, con un nutrito corpo di spedizione. La reazione greca ha puntato, gioco forza, sulla guerriglia navale. Fallito a marzo, un attacco a Modone, uno analogo, è stato lanciato su Navarino il 26 aprile. I greci hanno sbarcato a Sfacteria 1500 uomini per bloccare la baia di Navarino, ma l'inatteso ritorno della flotta musulmana ha costretto i navigli ellenici a fuggire, abbandonando una parte dei soldati. Con calma, l'8 maggio Ibrahim Pasha ha attaccato con tale superiorità che lo stesso comandante greco, Mavro Kordatos, si è salvato solo gettandosi in acqua e nuotando fino a terra. Tra i tantissimi caduti anche Santa Rosa, arruolato come soldato semplice sotto falso nome. Un altro esule piemontese, Giacinto di Collegno, ottenuto il permesso di seppellire i cadaveri, è arrivato il 16 sul luogo del massacro, ma non ha trovato traccia dei resti del suo vecchio compagno. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Restiamo all'estero e andiamo negli Stati Uniti, dove il presidente è stato scelto dal congresso. È l'ex segretario di Stato John Quincy Adams, l'uomo che ha elaborato la svolta nella politica estera americana enunciata dall'ex presidente Monroe e sintetizzata nella frase «L'America agli americani». Nato a Legnago nel Veronese 75 anni fa, è morto il grande compositore italiano Antonio Salieri, del quale in sottofondo stiamo sentendo la Sinfonia Veneziana. Tutta la sua carriera è stata alla corte imperiale di Vienna, dove fu compositore e maestro di cappella. Tra i suoi allievi vi sono stati Ludwig van Beethoven e Franz Liszt, mentre la supposta rivalità con Wolfgang Amadeus Mozart, della quale a lungo si è parlato a Vienna, è tutta da dimostrare, visto che le opere dell'italiano nella capitale austriaca ebbero sempre maggiore successo di quelle del salisburghese. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Come sempre, da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.